Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Eppure converrete con me che non abbiamo mai visto il Milan giocare così male come quest'anno. Fatemi dire che dopo 30 anni che abbiamo pasteggiato a champagne e caviale, potremo anche sopportare, forse con più eleganza, un digiuno che sarà sicuramente passeggero. Infine, a chi mi dice che bisogna vendere, rispondo che ci sto provando da un anno, ma che vorrei lasciare il Milan in buone mani. E in mani italiane, ha detto un certo sconfortato Berlusconi, bisogna dire, in questo video che ha registrato oggi, era sulla sua pagina Facebook a proposito di Milan. Dice: un anno che sto cercando di venderlo, qui non si pasteggia più a champagne e caviale, ma sarà una cosa passeggera. Spero di venderlo, di darlo in mani italiane. Ha anche detto si ricevono volentieri consigli, quindi se qualcuno ha da dare indicazioni preziose su quello che può essere il destino del Milan, faccia pure. Quello che invece vi chiederò questa sera è un'altra cosa. Si è parlato molto di Europa oggi, perché c'era il convegno sullo stato dell'Unione Europea a Firenze, e c'erano vari leader europei, c'era naturalmente Renzi, e poi il Papa oggi ha parlato molto di Europa, gli è stato conferito il premio Carlo Magno, per chi si è dato da fare, insomma, per cercare di rafforzare l'idea di un'Europa unita e solidale. E il Papa ha detto che l'Europa deve tornare madre, nel senso dell'accoglienza. Renzi, fra le altre cose, ha detto: una delle prime sfide dell'Unione Europea è la maternità, bisogna tornare a fare figli. Adesso non so se le due cose possono coincidere in qualche modo, però diciamo sono anche molte altre le priorità dell'Unione Europea. Per esempio, secondo voi è importante la libera circolazione, è importante mantenere in vigore il trattato di Schengen, che è quello che è molto a rischio con tutte queste chiusure, che sia il Brennero, l'Ungheria, i vari muri che si alzano? Quello che vi chiedo è, visto che Matteo Renzi oggi ha detto se chiudiamo le frontiere europee chiudiamo dentro i terroristi, perché sono già qui, voi che ne pensate e ritenete che si possa fare a meno del trattato di Schengen o meglio rinunciare ai muri e avere comunque continuare a avere questa libera circolazione delle persone, in particolare delle merci? 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte per interagire, per scrivere le vostre riflessioni. Pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Voi fareste a meno di Schengen? Sareste pronti a fare a meno di Schengen? Mentre voi riflettete, vi dico anche che naturalmente, essendo venerdì, faremo un ampio bilancio della politica della settimana, quante cose sono successe in questi giorni, e ci occuperemo di molte altre cose. Come sempre, alla fine ci sarà anche il meteo per capire che fine settimana ci attende. Intanto vediamo che giornata è stata questa. Europa, il Papa lancia un appello: torni a essere madre, a dare un tetto per tutti e migrare non sia un delitto. Elezioni in Gran Bretagna, Londra ha scelto il suo sindaco, è Sadiq Khan, 45 anni, laburista, figlio di immigrati pakistani musulmani. Turchia, con la cura Erdogan, chiude il primo quotidiano d'opposizione, il direttore di un altro giornale non in linea col presidente esce illeso da un attentato, mentre gli arriva una condanna a 5 anni di carcere. Le tensioni tra magistratura e politica, anche la NM prende le distanze da Morosini e il sindaco dimissionario di Lodi, Uggetti, resta in carcere. Elezioni comunali, rush finale dei partiti per le liste, Giorgia Meloni smentisce le voci e dice non mi ritiro, e Aplati rinuncia alla candidata del PD, il centrodestra intanto resta diviso. Caso Regeni, domenica nuovo vertice per gli investigatori italiani ed egiziani, tra i tabulati inviati a Roma anche quelli relativi al capo del sindacato degli ambulanti. Olio di palma sui rischi per la salute, la ministra Lorenzin interpella Bruxelles per vederci chiaro. Sport, Giro d'Italia, la prima tappa va all'olandese Dumoulin, e per il calcio, Berlusconi, l'avete sentito, Allegri firma il rinnovo alla Juventus fino al 2018. Partiamo quindi dall'Europa e dal Papa, al quale oggi è stato conferito, vi dicevo, in Vaticano, la presenza dei vertici dell'Unione Europea, il premio Carlo Magno, assegnato ogni anno per il lavoro svolto in favore dell'integrazione e dell'Unione in Europa. Sentiamo l'appello di Francesco. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? Renzi, intervenendo a Palazzo Vecchio a Firenze, al convegno, vi dicevo, The State of the Union, lo Stato dell'Unione, ha detto: se chiudiamo le frontiere europee, chiudiamo dentro i terroristi. Il primo muro, ha detto, è la paura, non dobbiamo perdere l'identità del nostro continente, quindi di apertura. Ci torneremo, come dicevo, dopo su questi temi. Il convegno di Firenze, tra l'altro, è dedicato quest'anno al ruolo delle donne nelle istituzioni europee e non solo. E la ministra Stefania Giannini, che era presente, ministra dell'istruzione, ha detto: l'emancipazione femminile in Italia e in Europa parte dalla scuola, è la base, dice, per abbattere stereotipi e pregiudizi, ma soprattutto per fare quello che le ragazze devono fare, cioè osare, avere fiducia in se stesse, credere nelle loro capacità competitive. La società ha bisogno di questo, ha detto Giannini. E siamo alle elezioni in Gran Bretagna. Il laburista Sadiq Khan, 45 anni, figlio di immigrati pakistani musulmani, è il nuovo sindaco di Londra, laureato in legge, membro per l'esattezza dell'ala socialdemocratica moderata dei laburisti, è avvocato specializzato in diritti umani e anche, vi dicevo, musulmano. Ma un imam estremista gli avrebbe scagliato contro una fatwa, una condanna, dichiarando che non appartiene più alla fede islamica, perché nel 2013 Khan disse di aver ricevuto minacce di morte perché aveva votato a favore della legge sulle nozze gay. Questa è una scelta rivoluzionaria di Londra, di cui torneremo a parlare poi collegandoci direttamente con la capitale britannica. Per quanto riguarda la Turchia, sono stati condannati a 5 anni e 10 mesi di carcere Can Dündar, direttore del quotidiano di opposizione, e il collega Erdem Gui, a processo a Istanbul per lo scoop sul traffico di armi in Siria. Dündar è stato riconosciuto colpevole di rivelazione di segreti di Stato, stessa condanna per il caporedattore del giornale. Tra l'altro la sentenza è arrivata a poche ore da un attentato che ha subito lo stesso Dündar, avvenuto proprio davanti al tribunale. Ne è uscito illeso, un uomo ha sparato contro di lui, ne è uscito illeso. Però intanto il presidente turco Erdogan, anche di fronte a questo clima di tensione nel paese, non frena e dice: la Turchia non modificherà la propria legge sul terrorismo nonostante questa modifica sia richiesta tra le condizioni per il trattato sui visti con l'Unione Europea. Erdogan, che tra l'altro all'indomani dell'annuncio delle dimissioni del primo ministro Davutoğlu, anche se in realtà qualcuno dice lo ha cacciato, dice che per la Turchia è assolutamente necessaria una nuova costituzione con un sistema presidenzialista. Allora chiedo al nostro Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Alberto, questo è il regime con cui noi abbiamo dovuto fare un accordo e col quale, insomma, dovremo continuare a confrontarci? Perché non lo conoscevate? È la mia domanda. Non lo conoscevano i leader europei che hanno fatto questo accordo? Dove erano negli ultimi anni? Stavano dormendo? Non si erano mica accorti di quello che succedeva dentro l'Anatolia del Sud-Est, ovvero nel Kurdistan turco? Non si sono accorti dei giornalisti messi in carcere, della repressione nei confronti dell'opposizione, delle leggi speciali? Beh, era lo stesso Erdogan di pochissimi mesi fa, di questa primavera. Quindi non devono stupirsi adesso se Erdogan fa lo smargiasso e dice che non modifica la legge antiterrorismo. Ha anche le sue buone ragioni, se vogliamo. Sicuramente dirà che sta facendo la lotta all'ISIS e intanto bombarda i curdi, e intanto potrà dire: guardate che noi siamo in guerra alle nostre frontiere, come possiamo modificare questa legge in queste condizioni? E quindi l'Unione Europea in qualche modo o rallenterà la concessione della storia dei visti, oppure prima o poi l'accetterà ugualmente, come ha accettato tante cose da Erdogan. La signora Merkel è andata pochi giorni fa a Gaziantep, ha incontrato Erdogan e Davutoğlu, ha detto qualcosa forse sulla violazione dei diritti umani o dei curdi o della stampa? No. Sta dicendo qualcosa per esempio sull'idea di togliere l'immunità ai parlamentari curdi? Neppure su questo. Quindi io credo che l'Europa si debba svegliare e capire con chi sta negoziando. Grazie Alberto Negri. Ciao Alberto. Grazie a voi. Buona serata. E passiamo invece alla politica italiana. Scadono domani a mezzogiorno i termini per presentare le liste negli oltre 1300 comuni che andranno al voto il 5 giugno, e sulle elezioni, voi lo sapete, continueremo a fare ampia informazione. Per scegliere bisogna capire. Si muovono da questo concetto di radio di servizio, reportage, approfondimenti, interviste, inchieste speciali che da domenica 8 maggio fino al 19 giugno Radio 24 dedica alle elezioni amministrative. L'idea è quella di realizzare una grande narrazione composta da tante voci sulle città che sceglieranno tra il 5 e il 19 giugno i nuovi sindaci. I problemi risolti, quelli ancora rimasti inevasi, le questioni urbanistiche, i trasporti, la circolazione, l'emergenza abitativa, l'ambiente, la cultura, la trasparenza negli atti amministrativi, l'equilibrio dei bilanci. Insomma, la vita delle città narrata da chi ci abita. Il primo reportage va in onda domenica 8 maggio alle 8:10 e lo ha messo in campo Raffaella Calandra. È un viaggio nella Milano del dopo Pisapia e la sua rivoluzione arancione. Del dopo Expo, sempre però attraverso gli occhi delle persone, con i loro affanni, le loro speranze di cambiamento, i sogni e le certezze dei vari candidati di partiti, coalizioni, liste civiche che ambiscono alla guida politica e amministrativa. Il treno delle amministrative di Radio 24 toccherà altre quattro città: Roma con Elisabetta Fiorito, Napoli con Anna Rita D'Ambrosio, Torino con Paolo Piacenza e Bologna con Federico Mascagni. Le ultime fermate le faremo il 5 e il 19 giugno, con gli speciali dedicati al primo turno e agli eventuali ballottaggi. Tutte le informazioni le trovate comunque sul nostro sito radio24.it. Intanto a Platì, comune calabrese, simbolo del potere dell''ndrangheta, la candidata del PD Anna Rita Leonardi. Leonardi fa un passo indietro in extremis, dice non ci sono le condizioni, spiega questo perché dice che ha subito troppe pressioni, una roccaforte appunto dell''ndrangheta, non si riescono a tenere le elezioni pensate dal 2009. Prosegue nel frattempo lo scontro sulla giustizia, l'Associazione Nazionale Magistrati dice inopportuno l'intervento di Morosini, anche su questo torneremo poi tra poco nel bilancio della politica della settimana. Pensioni e fisco intanto, il confronto continua, restano molti nodi, però spunta l'ipotesi di una mini sforbiciata all'IRPEF. Ruoterà attorno a pensioni e fisco la politica macroeconomica del governo dei prossimi mesi. Obiettivo consentire un ricambio generazionale nel mondo del lavoro, allentando per quanto è possibile la legge Fornero ed aumentare il potere d'acquisto del ceto medio per rilanciare consumi e crescita. Il nodo da superare però è quello delle risorse necessarie. Il nostro sistema previdenziale è uno dei più stabili e sostenibili, rivendica il ministro dell'economia Padoan. Certo, c'è spazio, aggiunge, per migliorarlo, ma senza intaccarne la sostenibilità. E sempre in questo quadro di attenzione ai conti si può inserire, parole di Padoan, lo spazio per la riduzione delle tasse. Fonti del Ministero del Tesoro fanno sapere che il governo starebbe lavorando ad una mini sforbiciata all'IRPEF, stavolta guardando a quella fascia sociale esclusa finora sia dagli interventi in favore dei redditi bassi, gli 80 euro, sia da quelli che hanno alleggerito il fisco per le imprese. Si punterebbe allora ad una limatura di un punto delle attuali aliquote intermedie, al 27 e al 38%, intervento che costerebbe circa 3 miliardi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per il caso Regeni, ve l'ho annunciato già nei giorni scorsi, domenica ci sarà un nuovo vertice tra gli investigatori italiani ed egiziani, tra i tabulati inviati a Roma anche quelli relativi al capo del sindacato degli ambulanti, che per carità potrebbe essere potente in Egitto, non si sa, detta così, ma sembra di lasciare sempre un po' di perplessità sulla possibile collaborazione. Comunque, passiamo a questa notizia che riguarda salute e alimentazione. Scoppia nuovamente il caso sull'olio di palma, presente in tanti prodotti per la colazione snack, salito sul banco degli imputati per gli effetti nocivi che secondo l'EFSA, cioè l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, potrebbe avere sulla salute. E l'Italia interpella Bruxelles per vederci chiaro. La ministra della Salute Lorenzina ha deciso di chiedere al commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare di avviare con urgenza l'esame del parere scientifico, appunto, che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha sede a Parma, ha pubblicato su questo prodotto. Poi vi ricordate che due giorni fa avete scritto moltissimo quando vi ho lanciato come argomento la possibile sostituzione del bollo dell'auto con maggiori accise, perché un cittadino o una cittadina l'aveva proposto, in Matteo Risponde, questo incontro telematico che Renzi ha ormai fisso più o meno il mercoledì con gli elettori, e qualcuno gli ha proposto di eliminare il bollo sull'auto e di rincarare magari le accise. Tutti stanno facendo un po' i calcoli, le ipotesi, chi ci potrebbe perdere, chi ci potrebbe guadagnare. La UIL dice che il bollo auto nel 2015 ha assicurato alle casse delle regioni oltre 6 miliardi di euro, che incide per l'11,7% del totale delle entrate delle imposte dei tributi delle regioni. E come si vede, dice questo rapporto della UIL, si tratta di un bel gruzzoletto a cui le regioni, già alle prese con i tagli decisi dal governo, dovrebbero rinunciare. Pertanto, sottolinea il sindacato, la ventilata abolizione del bollo auto dovrà assicurare integralmente il gettito alle regioni, come è stato fatto per la TASI. Altrimenti, conclude la nota, è forte il rischio di abolire una tassa odiata dagli automobilisti, il bollo, ma nel contempo di aumentare altre come l'addizionale regionale IRPEF o le accise sui carburanti. Sulle accise era questa la proposta di scambio. Comunque, per chiudere c'è lo sport, a cominciare dal ciclismo. L'olandese Tom Dumoulin è la prima maglia rosa del 99esimo Giro d'Italia. Il ciclista si è aggiudicato la prima tappa di Apeldoorn in Olanda. Per il calcio, Allegri confermato fino al 2018, il tecnico livornese ha esteso il suo contratto per altri 2 anni. E poi c'è una notizia che vedo adesso, un'agenzia di pochi istanti fa: Marco Verratti sarà operato e salterà gli europei. Lo ha confermato il procuratore del calciatore, interpellato dall'ANSA. Il centrocampista azzurro si sottoporrà il prossimo 16 maggio a Doha a un intervento chirurgico per risolvere i suoi problemi di pubalgia. Sapete che è un disturbo che colpisce molti calciatori. Bene, voi intanto state scrivendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, visto che molto si è parlato di Europa, ne ha parlato Renzi ai vertici europei a Firenze, ne ha parlato il Papa in Vaticano, gli è stato conferito questo premio Carlo Magno. Voi sareste propensi o pronti a rinunciare a Schengen, questo libero trattato di circolazione? Molti stanno scrivendo: i confini dividono, contrappongono, creano invidie e inimicizie, comunque hanno fatto il loro tempo, anche perché è impossibile, questo è un WhatsApp, lo apriamo, è impossibile renderli impermeabili i confini, difendersi dai migrati aggressivi è una questione di polizia. Cesare Zaccaria da Anzio, vicino Roma, scrive questo. Poi dice Monica, Alberto Negri, va bene, ha fatto piacere. Poi non si può tornare indietro, dice un altro ascoltatore, non dobbiamo dimenticare che noi siamo quelli più penalizzati in Europa per quanto riguarda i movimenti. 349-238-6666, numero per gli sms e per i WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi, giorno e notte. Ci sentiamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre un quadro esaustivo della giornata, delle notizie più importanti, e poi a questo punto, sempre con me Roberta Giordano e voi in ascolto e con i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, poi ci addentriamo dentro i vari argomenti con gli ospiti. Tra poco, essendo venerdì, facciamo il punto sulla politica della settimana. Intanto, a proposito dell'argomento che avevo lanciato per i vostri commenti, visto che oggi appunto si è discusso moltissimo di Europa, perché a Firenze c'era la conferenza per lo Stato dell'Unione Europea con Renzi e i vari vertici europei, in cui ha detto Renzi bisogna difendere, si continua a dire in questi giorni, bisogna difendere Schengen, non possiamo chiuderci in Europa entro i nostri confini, perché chiuderemmo anche i terroristi dentro, no? Quindi è una falsa speranza immaginare di costruire muri per fermare i terroristi. E il Papa, che anche ha fatto un appello all'Europa che torni a essere madre, quindi ad accogliere. Cosa ne pensate? Sareste mai pronti voi a rinunciare a Schengen? Non ritenete che il trattato di Schengen sulla libera circolazione sia fondamentale, sia irrinunciabile in Europa? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Sergio da Milano dice: non ho più parole per quello che dice Renzi, dopo aver fatto entrare tutti adesso spera o pensa che i terroristi abbandonino l'Italia di loro spontanea volontà. Non ha detto proprio questo. Comunque Tazio dice: preferisco la sicurezza a Schengen, la tolleranza viene confusa con la debolezza. Poi un altro messaggio: il Papa fa il suo lavoro, Renzi incapace di governare i flussi, parla di aprire perché non riesce a chiudere, che è ciò che vogliono gli italiani. Poi molti altri messaggi che continuerò a leggere dopo. Adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. La settimana sarebbe un po' troppo. Sadiq Khan è il sindaco, il nuovo sindaco di Londra, trionfa, è un laburista e musulmano. Ed è stata effettivamente una scelta abbastanza rivoluzionaria di Londra, ne parleremo poi. Il Papa oggi, mentre ritirava il premio in Vaticano, Carlo Magno, dice: sogno un'Europa mamma dove emigrare non sia un delitto, bisogna rifondare l'Unione Europea sull'inclusione e sui diritti, dice. caos giustizia per quanto riguarda le tensioni tra magistratura e politica, di cui parleremo a breve. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati prende le distanze dal consigliere Morosini. Intanto il sindaco dimissionario di Lodi, Uggetti, resta in carcere. Rush finale dei partiti per le liste. Meloni dice non mi ritiro, smentisce le voci sul suo possibile ritiro per questioni di salute e di gravidanza. Intanto a Platì, in Calabria, la candidata del PD rinuncia alle elezioni che non si riescono a fare dal 2009, dice troppe pressioni dall''ndrangheta. E ancora il direttore del giornale, di uno dei principali giornali di opposizione in Turchia, scampa l'attentato e poi riceve questa condanna a 5 anni. Erdogan, il presidente turco, sta dando un'ulteriore stretta sui media e chiude anche il primo quotidiano d'opposizione. Quindi il bilancio della politica della settimana. Una settimana, se va a san dire, è stata veramente molto intensa tra politica tout court, quindi soprattutto le amministrative, alta tensione tra politica e magistratura e le inchieste. Anzi, diciamo che si possono capovolgere le ultime due voci, nel senso che prima sono arrivate le inchieste e poi è riemersa questa annosa questione della difficile dialettica tra classe politica e magistratura. Dicevo ieri che nel nostro paese questo rapporto difficoltoso è in realtà un fenomeno carsico, nel senso che da anni che scorre, diciamo, sempre sotto traccia, poi vi sono dei momenti in cui riemerge con particolare energia, con particolare vigore, cosa che sta succedendo proprio in questi giorni. E questo momento di riemersione, dicevo ieri, lo possiamo davvero collocare quando durante i voti di sfiducia, le mozioni di sfiducia che sono state votate in Parlamento settimane fa contro il governo Renzi, che poi non sono passate, Renzi ha detto, ha tuonato praticamente contro 20 anni di barbarie giustizialista, perché queste mozioni di sfiducia erano conseguenti all'inchiesta su Tempa Rossa. Sentiamo Renzi. Questo paese ha conosciuto giudici, figure di giudici eroi, che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione, contro l'illegalità. Ma questo paese ha conosciuto anche negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. E a quella dichiarazione, che ha sentito evidentemente come provocatoria, come offensiva nei confronti della magistratura, dell'operato della magistratura, il neoeletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Piercamillo Davigo, che era uno dei componenti del famoso pool di Mani Pulite ai tempi di Tangentopoli, ha replicato con durezza dicendo che rispetto a Tangentopoli i politici in realtà non è che rubano meno, che si vergognano meno, e tra le altre cose ha anche sottolineato: certamente ci sono tante persone che sono state dipinte dai mezzi di informazione come colpevoli quando non lo erano. In compenso c'erano persone condannate con sentenza irrevocabile che hanno fatto per 5 anni il deputato. Quindi poi di lì è iniziato tutto questo botta e risposta, che in questi giorni ha assunto anche delle connotazioni ancora più pesanti per le inchieste, no? Che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Stefano Graziano, che è il segretario PD campano, e ancor più con l'arresto del sindaco PD di Lodi, Uggetti. Tra l'altro è stato braccio destro come assessore del vice segretario del PD Guerini, che è stato sindaco di Lodi, e su questo è intervenuto anche un componente laico del PD, del Consiglio Superiore della Magistratura, dicendo questa misura dell'arresto addirittura, dice, è ingiustificata e comunque eccessiva, e voleva esaminare questa ordinanza. A quel punto è intervenuta l'Associazione Nazionale Magistrati dicendo che la sua era un'iniziativa inaccettabile. È scoppiata la polemica poi per l'intervista pubblicata dal Foglio all'esponente di Magistratura Democratica, sempre del Consiglio Superiore della Magistratura, Pier Giorgio Morosini, il quale avrebbe detto Renzi va fermato. Lui smentisce, però nel frattempo c'è il Ministro della Giustizia Orlando che sta cercando un po' di ricucire questo rapporto, di fare chiarezza, chiedendo chiarezza al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, il quale definisce comunque inaccettabili gli attacchi a esponenti di governo e di Parlamento. Nel frattempo poi c'è stata anche la condanna a 3 anni del patron di Tiscali, ex presidente della regione Sardegna, Soru. Insomma, diciamo una situazione piuttosto tesa, e su questo saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Ciao Guido. Insomma, è difficile trovare sempre il giusto equilibrio, no, in questa dialettica così, così tesa, e forse stiamo tornando un po' è possibile secondo te a quei 20 anni del periodo berlusconiano in cui c'era veramente fuoco e fiamme, insomma, in questo rapporto complicato? Sì. Insomma, come hai detto bene tu, questo è un po' un fenomeno carsico che affiora e poi dopo tende a sparire, poi riaffiora. Adesso siamo nella fase in cui viene automatico pensare a un periodo come quello, diciamo, scoppiato con Tangentopoli, quindi ai primi anni del 1900, degli anni 90, e sembra di essere tornati a quel punto, quindi con una forte contrapposizione tra politica e magistratura. Ora poi in realtà le cose poi a ben vedere sono cambiate. È vero che ci sono oggi protagonisti sono ancora come per esempio il magistrato Davigo che faceva parte del pool. Guido, perdonami, ti sentiamo un po' male? Sì. Vediamo magari ti stiamo bene. Sì. Dico, è vero che ci sono alcuni personaggi come il magistrato Davigo che erano protagonisti ieri e sono protagonisti anche oggi di questa polemica. Però in realtà poi diciamo sono cambiate molte cose. Molte cose dal punto di vista innanzitutto diciamo, politico, perché quello che ieri ai tempi di Tangentopoli era, sembrava il partito diciamo di riferimento dei magistrati, se lo vogliamo chiamare così, cioè quello che allora era diciamo, il PD di allora, oggi invece è sul fronte opposto ed è in polemica con la magistratura. E mentre invece oggi il partito che sembra fiancheggiare la magistratura in polemica con il PD è il Movimento 5 Stelle. Quindi è cambiato anche un po' diciamo, i riferimenti, e sono cambiati poi i riferimenti politici di questa polemica. Vero. E poi diciamo che si ripete anche uno schema che abbiamo visto in azione nel 2006, cioè quando siamo andati al referendum costituzionale voluto dall'allora governo Berlusconi nel 2005, si andò a votare nel 2006 con un referendum popolare e il referendum fu sommerso da una pioggia di no. E anche questa volta diciamo uno dei motivi del contendere tra la magistratura e la politica, o meglio tra il PD e Renzi e la magistratura, è il referendum sulle modifiche costituzionali che sono state introdotte con la legge Boschi, sulla quale andremo a votare a ottobre. Il referendum a ottobre. Quindi anche in questo caso si parla di addirittura da parte di alcuni magistrati sono state usate parole molto dure, cioè una deriva autoritaria, l'uomo solo al comando, la democrazia in pericolo, la Costituzione del 1948 tradita, insomma. Sono state usate delle parole molto simili a quelle che furono usate nel 2006. E quindi da questo punto di vista diciamo si ripropone un po' lo schema. Insomma, ecco. E comunque in ogni caso Renzi, quando in questi giorni qualcuno ha ventilato che ci fosse un complotto nei confronti del PD, diciamo che si è guardato bene opportunamente dall'infiammare ulteriormente questa polemica, sentiamolo. Il PD non grida al complotto nel modo più assoluto. Il PD, quando ci sono delle indagini, dice ai magistrati, prego, andate avanti. Noi invitiamo i magistrati a indagare. Noi siamo dalla parte di quelli che pensano che quando c'è un'indagine si debbano aiutare i magistrati a svolgere le indagini nella più ampia libertà. Nel frattempo Ermini, sempre del PD, parla praticamente di invasione di campo da parte di alcuni magistrati nelle questioni inerenti, attinenti alla politica, ed esprime anche una certa diffidenza rispetto a certi magistrati. Sentiamo Ermini. Vedo che ci sono delle prese di posizioni da parte di alcuni membri della magistratura sulle scelte della politica, non ultimo il comitato per il no. Ecco, quindi credo che invece, anche perché io dovrei andare domani a farmi giudicare, da uno che ha preso una posizione politica contro di me. Si riferisce a questa, alla presa di posizione? Mi riferisco alla posizione. Questo Ermini, quindi se dovessi farmi giudicare, diciamo che pare che un pochino si ricomponga la situazione, Guido Gentili, però. Beh, insomma, Renzi ha fatto bene a dire che non c'è nessun complotto e un po' a stemperare i toni di questa polemica. E a sua volta anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha comunque definito inopportune il senso delle parole che il magistrato aveva dato nell'intervista al Foglio, in cui si attaccava nella sostanza frontalmente il Presidente del Consiglio Renzi. Quindi insomma si è cercato un po' di abbassare i toni della polemica, e questo però è accaduto tante altre volte. E non escludere che però nei prossimi giorni magari ripeteremo la rivedremo rifiorire di nuovo, perché insomma poi il motivo del contendere, ad esempio questo, diciamo, il contenuto dello scontro referendario sulle riforme costituzionali è ancora lì sul tavolo, quindi diciamo, avremo occasione, io credo, di riparlarne. Di ritornarne, senz'altro a parlare. Grazie Guido Gentili, ciao, buon fine settimana. Ciao Guido. Intanto, a proposito del quesito che vi ho sottoposto questa sera, nel senso, voi sareste favorevoli, sareste pronti a rinunciare a Schengen oppure no? Cristiano scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: se non ricordo male, gli stati dell'area Schengen possono temporaneamente introdurre controlli e tutele, dice, epidemie, pericoli, forza maggiore, eccetera, ed è quello che sta accadendo, ma da qui a declassare il trattato chiudendo frontiere e alzando muri si finirebbe per tornare a una specie di guerra fredda interna al continente. Mimmo dice: questa Europa è tutto tranne il sogno che avevano i padri fondatori, e dico anche le madri, che era l'Europa dei popoli, non delle banche massoniche. Questa Europa è diventata rifugio di immigrati di qualsiasi genere, scrive Mimmo, anche climatici, terroristi in primis, solo in piccolissima parte sono rifugiati politici. Perché non parlate mai del piano Calergi? Poi parliamoci chiaro, questa gente che scappa dalla guerra voluta dall'ISIS cosa dovrebbe fare, eccetera eccetera. Poi diventa poi un po' zigogolato. Mimmo, scrivete più brevemente i vostri messaggi, per esempio come questo di Lorenzo da Milano. Al di là di come la pensi, scrive: i londinesi hanno dato una bella lezione all'Europa con l'elezione del nuovo sindaco, speriamo che gli inglesi tutti prendano esempio e non votino la Brexit, altrimenti per l'Europa si potrebbero aprire scenari molto negativi. Ne parleremo tra pochissimo, del sindaco, nuovo sindaco laburista e musulmano di Londra. 349-238-6666 per i vostri sms e per i whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo tra breve. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. La televisione siciliana, con le sue inchieste, è diventato negli anni il simbolo dell'antimafia. Per il suo impegno ha denunciato intimidazioni terribili, macchine bruciate, percosse, ma soprattutto l'uccisione dei suoi due cani. Reporters sans frontières, o Reporters sans frontières, due anni fa l'ha inserito nella lista dei 100 eroi mondiali dell'informazione. Come eroe antimafia ha un bel curriculum, no? Peccato che il curriculum pare fosse scritto fronte retro. C'era, sta parlando Crozza sulla 7 di Maniaci, sapete, il giornalista di Teleiato che in questi giorni, insomma, pare che si sia scoperto che forse non è proprio questo paladino dell'antimafia e avrebbe minacciato due sindaci e fatto passare l'azione violenta nei confronti dei suoi due cani da parte del marito geloso della sua amante per un attacco della mafia, quindi avrebbe ottenuto la scorta. Insomma, però passiamo intanto ad altro. Volevo strapparvi un sorriso, ma per il momento sto parlando di cose più o meno serie, anche se mettendole in ridicolo. Voi siete su Effetto Notte, ovviamente, e siete al posto giusto nel momento giusto, con la giusta conduttrice, permettetemi, e da qualsiasi parte voi stiate ascoltando Effetto Notte. A proposito di parti del mondo, noi siamo in Europa e la domanda che vi ho sottoposto questa sera, tra i vari argomenti che sto trattando con voi e con gli ospiti, è: oggi si è parlato di Europa, ne ha parlato Renzi ai vertici europei a Firenze, ne ha parlato il Papa a cui è stato conferito il premio Carlo Magno, dicendo che l'Europa non deve chiudere i propri confini, che deve rimanere con la sua identità accogliente, che il trattato di Schengen non deve essere messo in discussione. Allora quello che vi sto chiedendo è: voi lo mettereste mai in discussione? Sareste pronti a rinunciare al trattato della libera circolazione? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, dove stavo guardando infatti i vostri messaggi. Per esempio Sergio dice: tutto quello che dice Renzi è il contrario di quello che fa, dice, inaffidabile. Maurizio: l'Unione Europea continua ad essere quello per cui è nata, una comunità economica, per il resto non condivide valori, obiettivi, culture, ogni paese pensa per sé. Emilio: chiudere le frontiere verso l'immigrazione incontrollata ed incontenibile è una necessità, non una possibilità. E qualcuno dice in questo senso, per esempio Guerino, no, è un altro questo, sto trovando il messaggio, al 349-238-6666, che poi scrivete anche su altri argomenti, per cui qui c'è tutto un sedimentarsi di notizie, Mario, di messaggi vostri. Controllo vuol dire più libertà per tutti, altri paesi hanno a cuore la sicurezza dei propri cittadini e possono insegnare all'Italia, che da sempre il paese dei tarallucci e vino. Il nostro paese è in pericolo, il governo con Alfano è complice di chi guadagna sugli immigrati al 90% irregolari. Continuate con le vostre posizioni diverse, intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Europa, il Papa lancia un appello, torni a essere madre, a dare un tetto per tutti, emigrare non sia un delitto, e Renzi dice se chiudiamo i confini i terroristi restano dentro. Elezioni in Gran Bretagna, Londra ha scelto il suo sindaco, Sadiq Khan, 45 anni, laburista, figlio di immigrati pakistani musulmani. Turchia, con la cura Erdogan, chiude il primo quotidiano d'opposizione, il direttore di un altro giornale non in linea col presidente esce illeso da un attentato mentre gli arriva una condanna a 5 anni di carcere. Le tensioni tra magistratura e politica, anche l'Associazione Nazionale Magistrati prende le distanze da Morosini e il sindaco dimissionario di Lodi, Uggetti, resta in carcere. Elezioni comunali, rush finale dei partiti per le liste che hanno presentato oggi. Giorgia Meloni smentisce le voci, dice non mi ritiro, e Aplati, la candidata del PD, rinuncia per le pressioni dell'Ndrangheta. Non si riescono a fare elezioni dal 2009 in Calabria, lì in quel paese. Caso Regeni, domenica nuovo vertice tra investigatori italiani ed egiziani. Olio di palma sui rischi per la salute, la ministra Lorenzin interpella Bruxelles per avere un po' di chiarezza. Sport, Giro d'Italia, la prima tappa va all'olandese Dumoulin. E adesso parliamo della cerimonia che c'è stata oggi in Vaticano, attraverso la quale è stato conferito al Papa il premio Carlo Magno, che si dà ogni anno a chi ha svolto un lavoro in favore dell'integrazione e dell'unione in Europa. E c'erano presenti i vari vertici, i più importanti vertici europei, cioè Martin Schulz, che è il presidente del Parlamento di Strasburgo, poi il presidente della Commissione europea Juncker e quello del Consiglio europeo Tusk. Ma sentiamo qualche passaggio del Papa oggi nel suo discorso. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? E qui parla anche in quest'altro passaggio che faccio sentire del suo sogno d'Europa. Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Questo è l'appello e l'auspicio del Papa. Intanto saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Carlo, ciao. Ciao Roberta. Diversi ascoltatori e ascoltatrici stanno scrivendo: beh, il Papa fa il suo mestiere, però forse, non so, a memoria mia di donna, non so, qualche altro Papa si è speso così tanto per la questione europea, per l'integrazione, per... Ma no, diciamo che in questi termini, diciamo, è la prima volta da molto tempo. I due Papi precedenti, Ratzinger e Wojtyla, che erano due, sono, il secondo ancora vivo, europei, hanno impostato il loro pontificato con una forte, diciamo così, vicinanza all'Europa. La riscoperta delle radici cristiane dell'Europa per Wojtyla fu un tema fondamentale, però soprattutto per lui, per Wojtyla era una questione identitaria, mentre per Bergoglio, che non è europeo, anche se di origini lontanissime, latinoamericano, va a scoprire l'Europa proprio su fatti concreti, quindi le migrazioni, la famiglia, l'integrazione fra le persone, mentre nei due papi precedenti era più una questione ideologica, se posso dirla così un pochino grossolanamente, e questa è la differenza forte che c'è, per questo che c'è questo grandissimo impatto, che un papa latinoamericano che viene da un mondo di dittature, di sofferenze, un mondo diciamo anche di devozione popolare fortissima, andare a toccare le corde profonde dell'Europa, è questo il fatto diciamo straordinario. Poi il gesto simbolico che ha fatto, che probabilmente resta simbolico, però lui voleva dare un po' di risonanza anche alla situazione, per esempio sull'isola di Lesbo, dei migranti, no? Quando ha fatto la visita qualche settimana fa. L'isola di Lesbo stata, diciamo, l'atto forte che naturalmente ha attirato critica dall'estrema destra fascista europea, anche quella italiana per la verità, dicendo andassi se li portassi a casa, cosa che in parte ha fatto tra l'altro, quindi questa, ma poi la cosa importante della giornata secondo me è anche l'incontro con la Merkel, perché diciamo questo asse, non dico un asse politico come si fa, diciamo, noi giornalisti che semplifichiamo, però questo grande dialogo con la Merkel, diciamo così, impostato alla franchezza, è un fatto importante. La Merkel oggi è stata l'ospite d'onore, il co-protagonista, lo si è visto anche in Vaticano, fisicamente, sì. È arrivata per ultima, tutti si sono alzati quando è arrivata la Merkel, un attimo dopo è arrivato il Papa, cioè si è vista anche l'importanza, e il Papa con la Merkel parla chiaro. E la Merkel gli piace questo fatto, cioè si intendono molto, cosa che per esempio questo Papa non si intende quasi per niente con Hollande, tanto per dirlo, mentre con Renzi c'è un buon rapporto, però ecco con la Merkel che è il leader dell'Europa su tutti i fronti, ecco, e questa è una cosa importante perché dal punto di vista politico c'è questo, diciamo, questo dialogo forte. Grazie Carlo Marroni. Ciao. Grazie Carlo. A te, Roberta. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Dunque, prima della viabilità volevo ancora guardare qualche vostro altro messaggio, per esempio sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349 238 6666, il trattato di Schengen, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, prevede la libera circolazione dei cittadini europei e non degli immigrati clandestini, chi è clandestino deve togliersi dalle balle, dice, insomma, in questo modo, anche se chiaramente il trattato di Schengen prevede anche che non si chiudano i confini in senso generale, se non, come ricordava prima un ascoltatore, per delle emergenze particolari. Comunque, questo è il pensiero di questo ascoltatore, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Viabilità, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo brevemente, la notizia che è arrivata proprio in serata con Sadiq Khan, che è il trionfatore delle elezioni a Londra, il nuovo sindaco di Londra, laburista, figlio di pakistani immigrati, musulmano, il Papa che sogna un'Europa che sia mamma, dove migrare non sia un delitto, ne abbiamo parlato poco fa, ha ricevuto oggi il premio Carlo Magno per il suo lavoro a favore dell'unità europea. E poi caos giustizia in Italia, anche l'Associazione Nazionale Magistrati prende le distanze dal giudice Morosini del Consiglio Superiore della Magistratura, e intanto il sindaco dimissionario di Lodi, Uggetti, resta in carcere. Vi dicevo che ormai la corsa finale dei partiti che stanno presentando ormai le liste, e Giorgia Meloni che a Roma non smentisce il fatto di potersi ritirare, dice forse c'era nell'aria che dovessi ricevere un certificato medico per me e la mia gravidanza, no, sto benissimo e vado avanti. E poi il direttore del Cumhuriyet, del giornale d'opposizione turco, che scampa un attentato, poi riceve questa condanna a 5 anni, e il presidente turco Erdogan, nuovo giro di vite sui media, chiude anche il primo quotidiano d'opposizione. La Cassazione invece chiude definitivamente il caso Orlandi. Europa 24 notte. Prima di parlare poi del sindaco di Londra, siamo sempre in Europa e restiamo in Europa con Sergio Nava, caro Sergio. Oggi ricordavo le ascoltatrici e ascoltatori di su vari fronti si è parlato di Europa, sia allo Stato dell'Unione a Firenze, dove c'era Renzi, e ha parlato anche di Schengen, infatti stanno scrivendo molti messaggi su questo, e poi c'era il Papa che ha ricevuto il primo Carlo Magno, ha lanciato questo appello a un'Europa che sia più unita, più aperta anche. Effettivamente c'è il rischio che si possa rinunciare a Schengen? Ma diciamo che non se la passa molto bene, questa è stata una settimana in cui la Commissione ha fatto delle proposte per rimetterlo un po' in pista, poi vedremo a giugno cosa diranno i leader europei nel vertice di fine giugno, che dovrebbe proprio dare impulso a queste proposte, appunto, posto che, come diceva la Commissione, comunque resta il principio di Dublino, però inserire il principio di ricollocamento dei migranti in modo permanente, e chi non accetta questi migranti in sovraquota, come dire, paga. Questo già i paesi dell'est hanno detto che non intendono farlo. Poi c'è il problema Turchia, perché è vero che la Commissione ha detto liberalizziamo i visti, però ci sono delle condizioni ben precise, tra che queste non sta rispettando Erdogan, mi sembra. Beh, diciamo prima, ha, no? ha fatto diciamo una maratona parlamentare per far approvare tutte le varie condizioni, però oggi è stato molto chiaro che sulle leggi antiterrorismo, che è una delle condizioni che l'Europa chiede, Lui dice: noi andiamo per la nostra strada, voi andate per la vostra. Perché sono un po' particolari queste leggi antiterrorismo, tant'è che oggi ha fatto condannare a 5 anni, no, il direttore di un giornale non è un gran bel periodo in Turchia, accusandolo di terrorismo solo perché è contrario. Esatto, e le dimissioni del premier Davutoglu ieri sono un segnale abbastanza inquietante. Negativo. Tra l'altro oggi la Berlino, la Germania ha detto, insomma, speriamo che in qualche modo si mantenga il patto tra Europa e Turchia, proprio perché appunto si pensava in qualche modo Davutoglu ne fosse anche garante. Renzi tra l'altro oggi ha parlato allo Stato dell'Unione, ha citato la questione crescita, flessibilità, ha citato un po' le battaglie dell'Italia in Europa negli ultimi 2 anni, la questione crescita, flessibilità, si è concentrato sul tema immigrazione, ha detto non c'è alcuna invasione se 38.000 persone arrivano in poco più di 4 mesi, ha citato anche la proposta di Migration Compact presentata all'Italia, su cui ancora oggi la Commissione ha di fatto dato il suo appoggio, non esprimendosi nel dettaglio sulla proposta di Eurobond, però dicendo quello è un piano che va nella direzione giusta. E lo stesso Renzi poi ha detto quanto accade in Turchia pone degli interrogativi sull'accordo con l'Unione Europea. Quindi insomma, per tornare alla tua domanda iniziale, Schengen per ora sopravvive con qualche pesantissimo acciacco, però è chiaro che nei prossimi 2 mesi capiremo meglio quale sarà il suo futuro. Grazie Sergio Nava. Grazie. Capiremo insieme a te. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E siamo in Europa e chissà se resterà la Gran Bretagna in Europa. Sapete che c'è sempre questo rischio Brexit, che voti la Gran Bretagna per uscire prossimamente dall'Europa. Però a Londra è stata data una risposta forte nelle elezioni amministrative, nelle elezioni del sindaco di Londra, che è laburista e musulmano, di cui parlavamo appunto questa sera, pakistano, figlio di immigrati pakistani. Lui è nato a Londra, è un avvocato esperto in diritti umani. Ne parliamo con Leonardo Maisano di questa scelta, che è rivoluzionario, che già era nell'area. Leonardo, corrispondente da Londra. Nonostante fosse nell'aria, nel senso che i sondaggi avevano già annunciato che era molto probabile che Sadiq Khan avrebbe vinto le elezioni per diventare sindaco di Londra, ma è rivoluzionaria perché è la prima grande metropoli occidentale che ha un sindaco musulmano, e questo inevitabilmente ha considerazioni, come dire, ci porta a considerazioni diverse. Da un lato è musulmano, immigrato, e quindi il prodotto, come dire, di una nuova Londra, di una Londra metropoli globale che si permette in questo momento di crisi, dopo i fatti di Parigi, di Bruxelles, dopo quanto sta accadendo nel rapporto tra Occidente e estremismo di marca, in qualche modo islamica, una città che si permette comunque di osare, avere il coraggio di scegliere un sindaco musulmano, anche se assolutamente moderato, un deputato laburista, è stato sottosegretario nel governo Brown. Però la scelta di Sadiq Khan è anche importante per altri 2 aspetti. Uno riguarda Brexit, appunto, perché il suo concorrente principale, Zach Goldsmith, è un forte sostenitore del Brexit, nonostante sia conservatore, anzi, essendo conservatore, però fuori dalla linea del Premier David Cameron, che, come sappiamo, è favorevole al mantenimento dell'Unione, della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Quindi c'è questo segnale sul Brexit, Londra vota contro il Brexit, se si vuole dare quella lettura. L'altro aspetto è che è stata una vittoria, come dire, contro l'establishment squisitamente inglese, perché il nome Goldsmith è inevitabilmente il nome di una famiglia di banchieri potenti, britannici, eccetera. Che perde contro il figlio di un immigrato pakistano, guidatore di autobus. Madre sarda, no? Esatto, quindi insomma è una storia che ha molti aspetti, però è una storia unica e che secondo me sottolinea l'unicità di Londra. Cioè Londra ha saputo rispondere con una scelta, come dire, eterodossa a una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo. Grazie Leonardo Maisano da Londra, del Sole 24 Ore, corrispondente del Sole 24 Ore. Salutaci il sindaco se lo incontri, Leonardo. Ciao e buon lavoro a tutti. Intanto il nostro Paolo Corazzò di Trebi Meteo ci annuncia che avremo molto molto sole, essendo lui portatore sano di sole, non è vero Paolo? Ma certo Roberto, stavolta ottime notizie, sarà un weekend di bel tempo in gran parte d'Italia. Ti segnalo solo un po' di nuvole, qualche pioggia domani, prima in Sardegna e poi in Sicilia, ma domenica migliora anche in queste zone, poi qualche temporalino, ma i classici acquazzoni primaverili in montagna. Per il resto sole, temperature fino a 25 gradi. Infine, giusto per rovinare la festa, ti preannuncio però che settimana prossima si volta pagina, rimetteremo mano agli ombrelli. Sempre il bastone e la carota tu, va bene. Grazie Paolo Corazzò, buon tempo a te comunque sia. Ciao, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. E intanto ringrazio fra gli altri moltissimo Michela per il suo bel messaggio, dice che corre a casa per non perdere effetto notte. Ci risentiamo brevemente alle 22.